falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi inizia il Festival di Sanremo, non potevamo non farvi ascoltare una storia che ha attinenza con la musica e anche col festival, perché il Festival di Sanremo è soprattutto personaggi, persone che hanno dato tanto alla musica, e qui parliamo di qualcuno che col Festival di Sanremo ha grande dimestichezza, o meglio, ahimè, ha avuto grande dimestichezza. Giancarlo Bigazzi, classe 1940, più di una vita vissuta, perché alla professione dovremmo dire autore, però è stato anche membro di una band sui generis, molto sui generis, di cui parleremo, ed è stato forse il più grande produttore di artisti italiano. Questa è la celeberrima sigla che ha accompagnato parecchi festival, e Sanremo nasce come festival della canzone all'inizio e non dei cantanti, che in passato erano soltanto il tramite per fare conoscere le canzoni. Nel blu dipinto di blu, che sarebbe il vero titolo, anche se ormai la gente l'ha ribattezzata come Volare, è sicuramente la canzone italiana più conosciuta nel mondo. Però oggi vogliamo sottolineare che la nascita di una canzone non è solo una successione rapida di note e di accordi, è una struttura, è un'alchimia abbastanza complessa, che spesso è il frutto anche di un lungo lavoro di composizione. E poi c'è il testo. Certe volte, adesso non so se devo dirlo io, ma i grandi autori vengono considerati dei veri e propri poeti che consegnano al pubblico opere di grande bellezza. Ecco, uno di questi, un toscanaccio doc, era Giancarlo Bigazzi. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, ai, ai, ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, ai, ai. Se tu non sei con me. Ecco, una canzone che forse alle nostre orecchie oggi può anche sembrare ingenua, però è una di quelle canzoni che arrivano nel posto giusto al momento giusto e lanciano un giovanissimo Riccardo Del Turco, che va al successo con questa Luglio, col bene che ti voglio. Però soprattutto è il primo episodio di una carriera che avrà ben altre vette. Stiamo parlando di un ragazzo nato a Firenze nel 1940, quindi cresciuto in una città che ancora si sta leccando le ferite della guerra appena finita. Il padre è poliziotto, la madre è maestra elementare, però la mamma insegna anche il pianoforte, e questo è sufficiente per indirizzare il bambino Giancarlo sulla strada della musica. Non fa per lui l'università, e per volere del padre, il rapporto col padre lo segnerà parecchio, anche quando scriverà canzoni per altri. Poi vedremo perché. Per volere del padre va a Roma e inizia a lavorare in banca. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutti. Stiamo sbagliando tutti, dice Marcello Mastroianni nel film La Dolce Vita, facendo il bagno con Anita Ekberg. Siamo agli inizi degli anni 60 e a Roma c'è veramente la dolce vita. È facile conoscere registi, attori, cantanti, e per un toscano brillante come Giancarlo Bigazzi non è difficile fraternizzare con gli uomini e anche fare colpo sulle donne. Poi c'è il Piper, dove bazzicano tutti quelli che contano nell'industria musicale italiana. E c'è anche Riccardo Del Turco, per cui lui scrive Luglio. Ma c'è anche Ettore Carrera, che è l'amministratore delegato della CGD Sugar, che lo mette sotto contratto e lo fa diventare un autore. Giancarlo non vedeva l'ora di essere strappato al mondo bancario e se ne va da Roma e va a Milano. Milano in quegli anni è la fucina di talenti, piena com'è di case discografiche, e qui nel 69 scrive uno dei più grandi successi di un giovane cantante partenopeo, uno scugnizzo che diventerà l'idolo delle ragazze dell'epoca. La canzone si chiama Rose Rosse e lui è Massimo Ranieri. Rose rosse per te. Cosa voglio da te? Siamo agli inizi degli anni 70 e in rapida successione Bigazzi infila una serie di successi che rimangono nella storia della musica italiana. Se bruciassi la città, che Massimo Ranieri presenta a Canzonissima, Lisa dagli occhi blu, che è tuttora insomma l'unica grande canzone di successo di Mario Tessuto. Nel 72 viene scoperta una giovane cantante siciliana che va a Sanremo e anche lei dà il via a una carriera piena di successi. Questa cantante con i capelli a cespuglio e che avrà un fratello che scriverà cose altrettanto belle, sempre assieme a Bigazzi, questa cantante si chiama Marcella Bella e Bigazzi, assieme al fratello Gianni, le scrive Montagne Verdi. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Se noi dovessimo citare e commentare tutti i successi di Giancarlo Bigazzi, probabilmente arriveremo fino alla zanzara e ancora staremo parlando e raccontando di tutto quello che ha fatto Bigazzi. Però non è questo il punto, almeno non ci soffermeremo su questo, perché questo toscanaccio dal carattere schivo, grandissimo fumatore e persona di una simpatia dirompente, non era solo un autore, perché in realtà Bigazzi vive tre vite parallele. Una l'abbiamo raccontata, anche se in parte ce ne restano ancora due. Falco e il Gabbiano. Stiamo ripercorrendo in un modo che un po' mi commuove, perché mi ricorda tante cose, la grande carriera di Giancarlo Bigazzi, che non è solo un autore di canzoni, è molto di più per la musica italiana. E intanto Giancarlo conosce altri autori, perché stiamo arrivando alla seconda parte della sua vita, ad altri compagni di viaggio che si chiamano Totò Savio, per cui scrive grandi successi di Massimo Ranieri, Daniele Pace, che ha scritto Nessuno nessuno mi può giudicare per la Caselli, un altro autore notevole del panorama italiano degli anni 70. E poi due discografici, uno si chiama Elio Gariboldi ed è un emissario della casa discografica di Bigazzi, cioè la CGD, in Germania, ma viene spesso in Italia naturalmente, e l'altro è un personaggio ancora più strano, si chiama Alfredo Cerrutti, e sono un gruppo di amici un po' alla Amici Miei. Lei ha claxonato. Tu ha claxonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come Fadina, come antifurto, per esempio. E questo è uno dei momenti personalmente che io preferisco della storia dell'intera cinematografia mondiale, la supercazzola di Tognazzi. E siamo veramente in spirito in questo momento, perché il gruppo che si chiama Squallor, il gruppo formato da Bigazzi, Toto Savio, Pace, Cerrutti e Gariboldi, in realtà è proprio questo, degli amici che per divertimento fanno musica. Gli Squallor nacquero per puro divertimento, prima come gruppo di amici che improvvisava scherzi telefonici paradossali, telefonate fatte a utenti scelti per caso, in cui si annunciavano improbabili vincite a consegna immediata di tonnellate di bottiglie di Coca-Cola. Da lì si passò agli incontri notturni, dove gli amici dilagarono in un torrente irrefrenabile di storielle sporche, brani musicali a volte anche di grandissima qualità e deliri puri. E queste sono alcune righe tratte dal libro Giancarlo Bigazzi, il geniaccio della canzone italiana, scritto da Aldo Nove, scrittore e poeta. Io ho avuto la fortuna di partecipare da spettatore due o tre volte alle registrazioni dei dischi degli Squallor. Erano un gruppo di amici che tra alcol, sigarette, tonnellate di sigarette, belle donne, persone che entravano e venivano dallo studio, uscivano in un Elza Poppin della musica, si trovava e così spontaneamente inventavano delle canzoni, cioè in realtà Totò Savio diligentemente faceva le basi e poi succedeva quello che succedeva in studio. Dopo i Beatles, i Pink Floyd e Orietta Berti nacquero gli Squallor, fenomeno di successo, fenomeno di cesso, ma sempre un fenomeno era. Tutti correvano da loro, loro correvano dagli altri e si incontrarono. Quando non si videro più, dissero: ma dove sono andati a finire gli Squallor? Sono andati in vacca! Nel 2011 è uscito un documentario di Carla Rinaldi e Michele Rossi che ripercorre la carriera degli Squallor. Sono cinque amici che vivevano una doppia vita e in ufficio erano precisi, irreprensibili, ognuno nella sua veste, chi autore, chi discografico, chi produttore. Praticamente la valvola di sfogo era questa, che finita la giornata lavorativa questi cinque amici andavano a cena a gruppi molto nutriti di persone e poi verso le 11:30 arrivavano in studio e lì scattava quella molla che buttava tutto in goliardia, liberava l'istinto creativo di cinque che andavano con i canoni normalmente seguiti dalla musica italiana, e lì nascevano quelle idee che non si sapeva più se fossero dell'uno o dell'altro. Era veramente una fucina delirante di talenti. I testi erano irriverenti, volgari e quasi sempre demenziali. Io credo che gente come Elio e le Storie Tese, per esempio, debba molto agli Squallor. Allora vigeva una censura terribile, non si poteva dire niente, non si poteva scrivere nulla. Allora, radio e televisione erano Rai. E dunque per gli autori era un grosso handicap. La censura ha censurato O rimasto solo, una canzone del 63. Come non si poteva dire niente, loro hanno detto tutto. La censura non ce ne frega nulla. In una Puglia. Bastava divertirsi, no? Beh, nella frase dalla censura non ce ne fregava nulla, bastava ci si divertisse noi, in realtà si riassume tutta la filosofia di Giancarlo Bigazzi. In realtà la grande forza degli Squallor è proprio quella che, non essendo mai trasmessi in radio, erano diventati quasi una leggenda, e quindi i dischi si vendevano, e si vendevano, e come la scrittura per loro diventa una liberazione, perché si dà sfogo a tutto ciò che ognuno di loro non può esprimere normalmente con i propri testi e con il proprio lavoro. È una coperta di Linus sotto cui nascondere qualsiasi frase, qualsiasi cosa. Non si sentivano mai, come abbiamo detto, le canzoni degli Squallor per radio. Forse l'unica che in qualche modo qualcuno è riuscito a introdurre nelle sue programmazioni è quella che si chiama USA, USA for Italy, con la quale gli Squallor a modo loro fanno il verso a USA for Africa, che era il momento delle grandi canzoni benefiche, e gli Squallor non potevano non aggiungere qualcosa di caustico e di dissacrante. Caro Bob Dylan, tu che canti in casa, rega, quando c'è Gromyko oppure Gorbaciov, i soldi di quattro teste nucleari falli mandare qui fuori da lì appena puoi, mandaci banali. E beh, io credo che anche Checco Zalone, un bel corona di fiori sulla tomba di Giancarlo Bigazzi, dovrebbe andarla a portare, perché gli deve molto. E in questo periodo si parla tanto di satira, di libertà di satira. Bene, gli Squallor, senza battersi, senza condurre battaglie, in realtà scrivono su qualsiasi argomento e scherzano su tutto, sulle diversità sessuali, sul razzismo, sulla religione. Combattono a modo loro l'ipocrisia di una società che ha comunque bisogno di libertà di dire cose che oggi vengono considerate indice di inciviltà. Basta pensare al capo indiano che compare nella pubblicità del loro disco più famoso, il capo Arrapao. Ciao, comprati Arrapao. 40 minuti di allegria con gli Squallor, disco e cassetta. Arrapao è anche il titolo di un film che io possiedo in videocassetta, un film interpretato da tutti i componenti degli Squallor e quindi anche da Bigazzi. Il Morandini lo definisce il più brutto film della storia del cinema italiano, ma ci vuole del talento per arrivare primi anche in questa categoria, perché in realtà è un film talmente brutto da essere paradossalmente bello. E gli Squallor hanno dato vita a un filone demenziale, lo dicevamo prima, poi sono arrivati gli Schiantos, poi è arrivato Elio e le storie tese, e poi, lo dicevamo, Checco Zalone. Insomma, tutti quelli che hanno scritto canzoni per fare ridere in qualche modo devono qualcosa agli Squallor, e quasi sempre hanno avuto coraggio, ma non quanto ne hanno avuto loro, gli Squallor. Ma ci resta ancora un'altra vita da raccontare, delle tre che ha vissuto Giancarlo Bigazzi, quella che riguarda anche il sottoscritto. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la vita di uno dei talenti più prolifici della musica italiana e francamente una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella mia vita. E abbiamo raccontato delle canzoni famose che lui ha scritto, da Massimo Ranieri a Marcella a tanti altri. Poi abbiamo raccontato il colpo d'ala, quello degli Squallor, dissacrante gruppo formato da irreprensibili discografici di giorno che si scatenavano la notte. Ma c'è ancora molto per arrivare ancora più in alto. Fino dagli inizi degli anni 70 Bigazzi è un sarto che cuce con pazienza una canzone attorno a un cantante. Ce lo ricorda anche Caterina Caselli, moglie di Piero Sugar, ai tempi amministratrice delegata della CGD e oggi alfiere della sua etichetta, la celeberrima Sugar. Lui c'era una definizione di Carrera, che era l'amministratore delegato della Sugar, che diceva: lui è il vero canzoniere. ingegnere, cioè colui che effettivamente sa fare le canzoni, cioè la stesura giusta, cioè non è solo banalmente si può essere su due strofe, un inciso, adesso entriamo nel tecnico, però in verità i contrappunti che faceva, cioè il ricordo nella canzone di 3 minuti e mezzo di ricordarti per esempio la frase dell'inciso quando tu per esempio eri già sulla strofa, cioè c'è un lavoro veramente notevole di costruzione, di abilità, di suono, che diventa tutt'uno e alla fine c'è questa cosa magica per cui anche se non vuoi, quando la canzone è canzone apre qualsiasi corazza. Quello che Caterina ha detto a Che Tempo Che Fa è vero, io Bigazzi l'ho visto lavorare, ci ho lavorato assieme, era un cesellatore, un perfezionatore, era sempre irrequieto, sempre insoddisfatto di quello che scriveva e continuava a aggiungere cose, tasselli al suo mosaico, alla fine scriveva canzoni che avevano 10 strofe, 5 incisi e poi cominciava a togliere, a prendere il meglio, era uno che ci metteva tanto tempo a lavorare e soprattutto passava tanto tempo a scrivere, a stare dietro ai suoi progetti, almeno 12 ore al giorno, preferiva la notte, non era certo un mattiniero, però era uno di quelli che anche quando andava a letto ancora stava canticchiando la melodia della canzone alla quale lavorava. Però scrivere canzoni e basta è un'attività che va un po' stretta a Bigazzi, perché lui ha voglia di prendersi cura di un cantante e in qualche modo determinare assieme a questo cantante la sua linea editoriale e portarlo a scrivere una serie di canzoni che sapessero individuare con precisione la personalità di quel cantante e a questo punto il suo debutto come produttore e avviene con un ragazzo che fisicamente ricorda un vichingo, che ha capelli lunghi, rossi, forse ha delle caratteristiche giuste per portare la canzone italiana fuori dal territorio nazionale. Questo mingherlino di origine pugliese che viveva a Torino si chiama Umberto Tozzi e Bigazzi con lui decide di fare il grande salto, perché Bigazzi da quel momento sarà al fianco di Tozzi non solo come autore. Giancarlo era fantastico perché oltre ad essere un grande artista era mio papà, perché in qualche modo cioè mi stimolava, mi chiamava spesso per dirmi ma dormi o fai qualcosa. Sì, in effetti due caratteri complementari, insomma Umberto piuttosto parsimonioso nel scegliersi le ore di lavoro e Bigazzi che non mollava mai. Però da questa collaborazione nascono tanti grandi successi. Partono con Ti amo, poi c'è Tu, Notte rosa, Stella stai, ma soprattutto Gloria, che viene cantata da Laura Branigan nella colonna sonora di Flashdance e diventa numero uno della classifica americana. Questo non accadeva dai tempi di Modugno, c'è cioè un brano italiano in cima alle classifiche degli States. Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria, lascio aperto il cuore, Gloria, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, aspetto Gloria. Siamo arrivati ai primi anni 80 e Bigazzi ha il suo centro operativo a Settignano, sulle colline fiorentine, è una casa notevole, molto bella, dove naturalmente c'è uno studio di registrazione e lui ha creato una vera e propria factory, un Andy Warhol toscano. Qui arrivano tutti, ci sono moltissimi autori che in qualche modo fanno riferimento a Bigazzi, c'è Beppe Dati, Dado Parisini, Falagiani, cioè una serie di nomi che per gli addetti ai lavori sono nomi molto importanti, autori e cantanti, ognuno lascia un contributo o riceve ispirazione per il suo lavoro. E naturalmente ci passano anche i cantanti, ci passa Patti Pravo, ci passa Tozzi, ma anche nuovi autori con cui collaborare. Beh, Raff, cantante di un gruppo punk che si chiamava Caffè Caracas, approda alla corte di Bigazzi, prima con canzoni in lingua inglese, esplodendo con Self Control, e poi si cimenta anche nella scrittura di canzoni con testo italiano, ovviamente di Giancarlo Bigazzi, e dà l'abbrivio a una fantastica carriera. E poi c'è un altro ragazzo, sempre toscano, con cui Bigazzi stringe un sodalizio veramente stretto, perché in qualche modo, parlavamo all'inizio della trasmissione del padre, di tutti i conflitti irrisolti di Bigazzi, che lui trasferisce all'interno di questo ragazzo, che diventa il cantore dei conflitti interiorizzati e generazionali. Questo cantante si chiama Marco Masini. Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. Tutti questi personaggi, se venissero interrogati, prima abbiamo sentito Umberto, direbbero quanto Bigazzi è stato fondamentale per la loro affermazione, perché Bigazzi non è solo uno che ti scrive le canzoni o comunque ti aiuta a farlo, è quello che va a litigare nelle case discografiche al posto dell'artista, è quello che strappa buoni contratti, è quello che in qualche modo consente all'artista di andare a cantare libero da altri pensieri. E tutto questo Bigazzi lo interiorizza in una ottantina, centinaia di sigarette al giorno, lo interiorizza in un modo di fare che ti fa sempre pensare che sia sull'orlo di una crisi di nervi, e allo stesso tempo che ti dà battute una dietro l'altra, perché una delle grandi qualità di Bigazzi è che con lui non ci si annoia mai. La carriera di Masini è tuttora operativa, anche adesso che Bigazzi non c'è più, ma la linea che Bigazzi ha saputo dare a Marco Masini è quella che Marco Masini tutt'oggi, quasi a testimoniare l'affetto che provava per il vecchio produttore che non c'è più, continua a portare avanti con successo. Nel frattempo Bigazzi continua a scrivere grandi canzoni, una di quelle secondo me più nobili viene presentata anch'essa al Festival di Sanremo e in qualche modo restituisce una grande popolarità a una cantante alla quale tutti noi dobbiamo molto, Mia Martini, e Bigazzi le scrive la meravigliosa Gli uomini non cambiano. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Bigazzi continua a lavorare giorno e notte, soprattutto la notte, e continua a mantenersi abbastanza ai margini, pur avendo un carattere così espansivo. È uno che parla poco perché lavora, non gli piace esporsi, al punto che per esempio la dichiarazione che stiamo sentendo dopo un successo di Masini è veramente quasi una chicca. Siete arrivati terzi, sì. Quindi Bigazzi, un successo anche per te? Sembra un grande successo, è la conferma di un artista che farà molta strada. E di un paroliere che io di strada ne ha fatta, ma ne farà ancora tanta? Io spero di sì. Cosa auguri a Marco Masini e cosa auguri a te? Dopo questo successo, dopo il successo dello scorso anno e il successo di quest'anno. A me un po' di riposo e a Marco Masini tutte le soddisfazioni che gli verranno. Sono sicuro, perché è un ragazzo sincero nel vero senso della parola e ha ottenuto un grande risultato, perché ci sono davanti due che hanno fatto un grosso pezzo della musica popolare italiana, Renato Zero e Cocciante. Ecco, Bigazzi dice che per sé auspica un periodo di riposo, in realtà non è vero, è la classica persona che passa la vita a dire che lavora troppo, si lamenta, voglio andare in vacanza, ma poi in vacanza non ci va, perché gli piace di più fare musica, e fare musica in maniera trasversale, perché prima parlavamo della Factory, della sua bella villa vicino a Firenze, perché lì si fa musica e assieme a dei musicisti giovani ma di grande talento trova il tempo per scrivere una colonna sonora. O meglio, più di una, ma di una ci ricordiamo particolarmente perché è la colonna sonora di Mediterraneo. In genere quando ti capita capita una roba così, cioè vai a vincere l'Oscar, non vedi l'ora di partire, ti prendi lo smoking più bello che hai e cerchi di viverti l'emozione del tappeto rosso, ma Bigazzi ha paura di volare e quindi non va. Uno dei racconti su Bigazzi fu che una volta doveva andare a ritirare un premio in Germania e ci mandò Gariboldi facendogli dire che era Bigazzi, perché tanto nessuno sapeva che faccia avesse, quindi questo insomma la dice lunga anche sulla voglia dissacrante che aveva Giancarlo nei confronti anche delle istituzioni e degli stessi premi che venivano dati a lui. Ma c'è una parte che riguarda anche il sottoscritto, forse lo avrete capito dall'affetto con cui ho parlato di Bigazzi per tutta la puntata, perché a un certo punto della vita di Bigazzi e della mia i nostri destini si intrecciano, perché una canzone che era nata per essere sigla della Nazionale Cantanti in realtà diventa una canzone che va a Sanremo nel 1987. La canzone è di Bigazzi. Noi andiamo a Sanremo con la nostra casa discografica che era in cassa integrazione. Dopo che noi vinciamo con Si può dare di più, la cassa integrazione viene revocata e vengono istituiti i doppi turni per stampare le copie di una canzone che in qualche modo va al di là di un successo, perché diventa l'inno col quale la Nazionale Cantanti scende in campo in tutto il mondo, perché il Papa la canta, perché presidenti della Repubblica o gente come Arafat ci è venuta a salutare sotto le note di Si può dare di più. Quindi insomma una canzone che in qualche modo dura nel tempo. Quella canzone era anche un progetto di cui Giancarlo Bigazzi fu grande orchestratore, riuscendo anche con la sua simpatia a fare combaciare caratteri molto diversi, perché insomma Morandi, Tozzi e il sottoscritto erano tre persone che difficilmente avrebbero potuto vivere sei mesi della loro vita assieme se non ci fosse stato uno come Giancarlo Bigazzi che reggeva le fila di un sodalizio che è diventato amicizia e che in qualche modo è diventato storia della canzone. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.